Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Bella, tu sei bella, o mia regina. Osservate la vostra parte destra e poi confrontatela con la sinistra. Anche voi, immagino come me, notate delle differenze. Sfido chiunque a non trovarle. Un occhio è leggermente più grande dell'altro, l'orecchio destro non è perfettamente uguale a quello sinistro, e così anche la bocca. Ma le differenze non si limitano solo ai tratti del volto. Molti di noi hanno una gamba leggermente più corta dell'altra, una spalla che è più alta dell'altra. Tutto regolare. Siamo belli così. Così, o per dirla tutta, così ci ha fatto madre natura. Ci sono differenze che si notano e differenze invece che si sentono. Tutti noi abbiamo una parte del nostro corpo più forte dell'altra. Nella nostra pagina di Facebook vi abbiamo proposto un semplice test per valutare attraverso alcune posizioni la vostra parte dominante, almeno a livello muscolare. Qua in studio è tornata a trovarci Tite Toni. Ciao Tite. Namaskar. Insegnante di yoga certificata Iyengar, che ha suggerito questo test. Tite, noi abbiamo invitato i nostri amici a misurarsi con queste posizioni per toccare con mano quello che spesso gli occhi non vedono. Sì, e sono tre semplicissimi gesti, perché poi lo yoga è proprio anche quello che si porta fuori dal tappetino, nei gesti quotidiani. Sono tre gesti che uno può fare come test per vedere come sta nei suoi due lati, nelle sue due elementi. Il primo è Gomukhasana, lo si può fare in piedi, da seduti, persino nella doccia. E consiste nel provare ad agganciarsi le mani dietro la schiena, prima da un lato e poi dall'altro. Quindi prima sarà il gomito destro che va in alto e poi sarà il gomito sinistro. Il secondo riguarda la parte bassa del corpo, la posizione dell'albero. In piedi, stare su un piede, portare l'altro piede con la pianta del piede contro la coscia il più in alto possibile. E stare proprio come un albero, prima una gamba e poi l'altra, posizione dell'albero. La terza riguarda più il core, quello che si chiama il core, il nostro busto, gli organi addominali e la loro controparte, la zona lombare, la posizione della barca, stare seduti in equilibrio sugli ischi, sui glutei, alzando e staccando da terra sia le gambe che le braccia che il busto contemporaneamente, busto e gambe ad angolo retto. Ma provate a farlo, prima alzando la gamba destra e poi alzando la gamba sinistra. Posizione della barca. Se avete tempo, voglia, molti di voi hanno già eseguito questo test e ci hanno già scritto su Facebook, potete provare a misurarvi con questi esercizi. L'obiettivo di oggi è lavorare sull'equilibrio, conoscere la nostra parte forte per sfruttare anche le potenzialità di quella debole. Naturalmente, Tite, invitiamo anche i nostri ascoltatori, non solo attraverso questo test, ma anche ricordando un po' gli esercizi magari e gli impegni che svolgono durante la giornata, a prendere consapevolezza del loro corpo. Ci sono tanti gesti quotidiani, o anche quando ad esempio facciamo attività fisica, in cui il nostro corpo ci manda dei segnali. Avvertiamo un formicolio, un intorpidimento, notiamo che la forza di un braccio è inferiore a quella dell'altro. Altra. E questo nei gesti quotidiani, Tite. Sì, nei gesti quotidiani, se non c'è consapevolezza, non si può, per esempio, contare le volte in cui prendiamo il telefono sempre con la stessa mano, ci facciamo la doccia sempre tenendo il telefono della doccia sempre con la stessa mano. Quindi usiamo sempre inconsapevolmente, sempre la stessa parte del corpo. Il corpo è pigro. Ci vuole un fisico bestiale. Allora mi devo arrabbiare. Se ti fa piacere. Che muscoli. Sei un atleta. Il mio primo set di pesi. I pesi che ti hanno trasformato da un pappamolle bavarese in una massa di muscoli pulsanti. Anche per bere e per fumare. Sì. Oh, 12. Sapete, ragazzi, riesco a farne il doppio di quando ho cominciato. E guardate che addominali. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli ultimi. Tite, per alcuni sono i muscoli delle braccia, per gli altri gli addominali, per altri ancora quelli delle gambe. Bisogna lavorare, tu dici, sulla parte debole. Sì, mi è venuto in mente proprio quello che dice il mio maestro, BKS Iyengar, dice: hai una parte difficile? Considerala un figlio difficile, impara ad occupartene. E noi ce ne occupiamo, ma prima di lavorare sulla nostra parte debole, adesso abbiamo da te delle indicazioni per individuarla, ci beviamo un caffè. Perché secondo una ricerca funzionerebbe per i nostri muscoli un po' come gli spinaci per braccio di ferro. La caffeina aiuta i muscoli ad essere più forti. È questo quanto è emerso dai risultati di uno studio condotto dall'Università di Coventry, Regno Unito. La scoperta, che si aggiunge all'effetto della caffeina sulla resistenza muscolare, potrebbe offrire una nuova strategia, basata sull'assunzione di questa sostanza stimolante per aiutare i muscoli a mantenersi forti anche nella terza età, riducendo così il rischio di cadute e di infortuni che possono pregiudicare significativamente la qualità della vita delle persone più anziane. Senza dimenticare che, come afferma Jason Tallis, autore principale dello studio, la caffeina può esercitare ancora benefici che aumentano le performance. E allora ci beviamo un caffè insieme al nostro dottor Filippo Ongaro. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno, Nicoletta, buongiorno a tutti. Il caffè è un po' come gli spinaci? Il caffè è una sostanza molto importante, un alimento molto importante, e ci sono sempre più ricerche che confermano il ruolo biologicamente attivo che questo alimento ha, e devo dire che c'è stato anche un cambiamento di tendenza, nel senso che per anni si è parlato degli effetti nocivi o pericolosi del caffè. In realtà oggi stiamo scoprendo che, come il tè verde, il caffè è molto ricco di antiossidanti. Sapevamo che favorisce il metabolismo aerobico, il consumo d'ossigeno a livello dei muscoli, oggi scopriamo che addirittura li rafforza, li rende più pronti alla contrazione e rende l'organismo complessivamente più portato ad una prestazione precisa, attenta, che è molto importante anche nella terza età, come diceva la ricerca, anche per evitare le cadute. Quindi interessante capire come anche la visione scientifica cambi nel tempo, e in questo caso ci riappropriamo di qualche cosa che in generale ci piace, che in Italia tra l'altro facciamo molto bene. Stiamo attenti allo zucchero che ci mettiamo dentro, perché non è il caffè zuccherato che ci fa bene, ma è il caffè, e ovviamente anche alla quantità, che va gestita in maniera un po' individuale, perché ci sono anche persone che metabolizzano lentamente la caffeina, nelle quali l'eccesso di caffè può portare a tachicardia, nervosismo e insonnia. Però in generale è sicuramente piace ai muscoli e può aumentare la prestazione, la concentrazione e diminuire la fatica, e quindi anche prima di un'attività fisica il caffè può essere molto utile. E quindi iniziare la mattina con una bella tazza di caffè è una buona idea. È una buona idea, ed è anche un'idea di cui parleremo domani, no? Quindi possiamo già invitare gli ascoltatori che ci seguiranno in Mangia con me a ragionare su qual è la colazione perfetta, che sarà un po' l'argomento della puntata di domani. Quindi l'invito per i nostri ascoltatori per la puntata di domani di Mangia con me è: segnate il menù della vostra colazione e intervenite nella puntata di Mangia con me. Il dottor Ongaro sarà in linea con noi. Grazie dottor Ongaro e buon caffè. Grazie a voi, a domani. Tite, allora, il caffè aiuta naturalmente la nostra forza muscolare, ma i muscoli vanno allenati senza stress. Sì, esatto, senza stress vuol dire nel respiro, e questa è un po' la ricetta magica dello yoga, no? Allungare, potenziare insieme, ma sempre con il ritmo del respiro, mai imposto dall'esterno. Dopodiché, perché si fa tutto questo? Per non soffrire. Questo lo dicevano i testi sacri dello yoga, ciò che c'è rimasto di scritto più di 2000 anni fa, quindi non stiamo inventando niente. Ma perché lo si fa? Per la consapevolezza, per essere consapevoli e evitare le sofferenze fisiche, e poi anche il resto ci va insieme. C'è consapevolezza, è un percorso, è un viaggio. Posso fare un piccolo test, ma già certo, che siamo seduti? Allora, per dire il viaggio della consapevolezza quanto è lungo e quanto è interessante. Se voi siete seduti e vi chiedo di girare, fare una torsione aiutandovi con le braccia, girare, fare una torsione, quindi partendo dal basso della colonna andare a guardare dietro di voi. Ci riuscite? Ci riuscite di sicuro, meno bene da un lato rispetto all'altro, ma soprattutto ditemi cosa gira per prima. Gira la testa, girano le spalle o girate tutti voi? 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter in questa puntata in cui riprenderemo forza, conosceremo il nostro lato debole per occuparci di lui, per tirare fuori il lato buono del lato debole e soprattutto per lavorare sull'equilibrio, fondamentale per il nostro benessere. Tite. Sì, ecco, io posso darvi già la risposta? Sì. Allora, a seconda di della consapevolezza che abbiamo, sì. Se ne ho poca, se sono all'inizio della mia pratica, di sicuro è girata prima la testa. Perché? Perché il corpo ci fa degli inganni, ed è pigro, e quindi noi tendiamo a compensare. La parte chiusa la lasciamo chiusa e compensiamo con quella che gira meglio, cioè la testa, le cervicali. Invece dobbiamo aprire il torace. Quindi se avete fatto questo esercizio ed è la testa che ha girato per prima, attenzione, restate non siete con noi. Consapevoli. Non siete consapevoli, e per aumentare la vostra consapevolezza chiamateci 800 24 00 24. Io ero brava a scuola, ma non capivo la matematica, non c'entra niente col mondo reale. La matematica è il mondo reale, capisci? Dappertutto. Vuoi una dimostrazione? Prego. Vedi che i petali fanno una spirale? Il numero di petali in ogni fila è la somma delle due file precedenti. La sequenza di Fibonacci. Si trova anche nella struttura dei cristalli, nella spirale delle galassie, nella conchiglia del Nautilo. Quello sguardo negli occhi di Pitts dice che la letteratura dell'Ottocento non c'entra con le facoltà di economia e di medicina. Ho un segreto da confessarvi, avvicinatevi. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. E cari amici, anche per quanto riguarda le competenze, ci misuriamo con un lato debole e uno forte. Ciascuno di noi si sente più ferrato in un particolare campo e un po' più in difficoltà in un'altra. Scuola, c'era chi era forte in matematica, un po' più debole in italiano e viceversa. Ma come spiegare questa differenza? Doti naturali, bravura dell'insegnante, il compagno di banco magari più stimolante o cervello? Le nostre capacità dipendono dal differente sviluppo delle aree in cui è divisa la nostra centralina? Una domanda che giro al professor Piero Barbanti, che è in linea con noi e che saluto, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. La domanda interessante. Possiamo parlare un attimo prima di chi è il soggetto forte? Il soggetto veramente forte, il soggetto geniale, è un soggetto che ha un quoziente intellettivo sopra 120. Ne nasce uno ogni milione di persone ed è come una Ferrari che consuma poco, cioè in grado di analizzare, metabolizzare la realtà e agire non consumando nulla. Il compagno di banco di questo soggetto così forte, che può sembrare il soggetto debole, in realtà è un soggetto che ha forza, anche lui è il soggetto col talento. Il talento invece, per rispondere alla domanda, dipende abbondantemente dall'ambiente. Un esempio: un soggetto anziano che va in pensione scopre di avere virtù pittoriche perché, cimentandosi nel tempo libero, tira fuori le sue capacità. Ma non voglio eludere la domanda: lato forte e lato debole. Beh, il lato forte è senza dubbio una predisposizione. Noi come neurologi conosciamo bene la predisposizione musicale, che comporta un cervello lievemente diverso. Sono più frequentemente mancini, per esempio i musicisti, e hanno molto sviluppate delle aree cerebrali non solo legate all'abilità manuale, ma anche per esempio la zona temporale, che ha funzioni di integrazione molto importanti. E c'è uno studio recentissimo di qualche settimana che ci dice anche cos'è il nostro lato debole, perlomeno nella matematica. Si è dimostrato che i soggetti che hanno ansia della matematica attivano solo a pensare a un esercizio le aree cerebrali del dolore. E quindi una sofferenza vera e propria. Una sofferenza che io ho provato per anni al liceo. E che adesso ha una tutto ha una base documentato. Sono contenta. Esiste proprio una sindrome chiamata la sindrome da elevata ansia matematica, cioè tutta una letteratura scientifica a proposito. mi sentirei di fare una distinzione, di proporre magari agli ascoltatori un piccolo, direi quasi un indovinello più che un quiz, perché è piuttosto difficile e sorprendente. Noi sappiamo di avere un lato sinistro del cervello, un emisfero sinistro, abitualmente nei destrimani è quello dominante, sì, che è quello un pochino più integrato, più rigido, più ragionieristico, e il lato destro, quello delle virtù visuo-spaziali, più creativo, più bohemien, sì, più poetico. Allora la domanda che io vorrei rivolgere agli ascoltatori è: secondo voi Albert Einstein, che è stato sicuramente uno dei più grandi geni mai esistiti, il cui cervello, badate bene, è stato studiato dopo la morte, era più un cervello ingegnere, cioè aveva prevalente la funzione dell'emisfero sinistro, o era più un cervello poetico bohemien, cioè con la prevalenza del cervello destro? E la seconda domanda è ancora più cattiva, perché è: nella donna, secondo voi, gli studi neurologici e di neurofisiologia hanno dimostrato che funziona più l'emisfero sinistro, quello chiamato emisfero, insomma, un po' ingegnere, ragionieristico, o l'emisfero destro, quello estroso e poetico? 800 24 00 24, se volete accettare la sfida del professor Barbanti, chiamateci, provate a rispondere a queste due domande per ricevere a casa Guida al benessere, il libro che ho scritto insieme ad Alberto Pellai e a Paola Reverso. E quindi 800 24 00 24, chiediamo però al professor Barbanti di tornare. Ah, io sono pronto. Allora, noi raccogliamo le domande dei nostri ascoltatori e poi ritorniamo qui insieme a lei. Grazie, professor Barbanti. Grazie a voi. Abbiamo Renzo da Bologna e Angela dalla provincia di Milano, che voglio salutare. Intanto sento Renzo. Renzo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. No, io diciamo da 3 anni che pratico yoga. Io ho fatto dello sport, ho giocato a calcio, poi attualmente... 25 anni che corro a piedi, faccio la corsa, però a 58 anni si sente già la rigidità e i muscoli, diciamo, perdono potenza, poi anche le prestazioni sono nettamente minori. Però io che ho dei problemi a fare lo yoga, nel senso che per esempio se mi devo mettere nella posizione dello yoga a sedere con le gambe, sì, divaricate, non riesco, infatti la maestra mi da mettere sempre un mattoncino sotto al sedere, perché proprio io non ho l'anca. Non è sufficientemente flessibile, non è ancora un giunco. Ma l'importante è l'equilibrio tra le due cose, cioè se ha fatto sport come il calcio e la corsa, ovviamente queste cose chiudono il bacino, irrigidiscono i muscoli. L'importante è lavorarci sopra con lo yoga, non importa... Tita, hai detto una cosa interessante che vorrei far cogliere anche ai nostri ascoltatori. Se praticate sport, chiamateci, perché Tita dice il calcio ad esempio è uno sport che chiude, no, il bacino. Allora potrebbe essere utile approfittare oggi di Tite per capire quali sono gli esercizi o delle posizioni che compensano eventuali chiusure che ci procura la pratica di un determinato sport. Intanto voglio salutare da Angela. Angela, la saluto. Buongiorno. Buongiorno. Scoprii di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Gringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Ma anche lui avrà avuto un lato debole. 800 24 00 24, se volete parlare con noi del vostro lato debole e del vostro lato forte. Ci aspetta Angela dalla provincia di Milano. Angela, eccoci a lei. Buongiorno. Buongiorno. Sì, allora, io il mio lato un po' più forte, diciamo che è il destro, anche perché ho dovuto assistere i miei genitori invalidi e quindi... E avendo il tendine spezzato a sinistra ho dovuto lavorare su quello destro, l'altro lato. Però adesso purtroppo non ci sono più e quindi sto cercando di rimettermi in sesto. Ma diciamo che ho sentito quello che diceva ti la tetoni, signora, sì. E il fatto della testa, e dico, ma cavoli, non si può girare prima la testa, bisogna girare armonicamente sul lato più debole, perché questo dà una torsione perfetta a tutto il corpo. Ecco questo. E quindi lei ha provato e ha iniziato a lavorare proprio sulla torsione del corpo senza far lavorare troppo e stressare troppo la cervicale, Tite? Ma infatti, guarda, bisogna come smontare, no? le abitudini, ed è già quello fare yoga al massimo. Per esempio, quando uno si trova, viene chiamato e deve girarsi, aspettare un secondo a girare la testa. Inspiro, espiro, cominciare a girare dal bacino e poi alla fine la testa. La testa viene per ultimo. Non scappa nulla. La testa viene per ultimo. Ultima. E a proposito di testa, molti di voi mi chiedono di ripetere le domande proprio sul cervello che ci ha fatto il professor Barbanti. Sono due oggi. Il cervello di Einstein è studiato dopo la sua morte. Secondo voi sono risultate più sviluppate le funzioni dell'emisfero sinistro o di quello destro? E la seconda domanda è, nella donna qual è il lato forte del cervello, il sinistro o il destro? 800 24 00 24. Due domande per una guida, la guida al benessere. Abbiamo Nicola che ci chiama da Napoli. Benvenuto Nicola. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci. Volevo farle i complimenti in diretta sulla trasmissione. Io la seguo ogni mattina, sempre con spirito costruttivo il suo, sempre piena di energia, quindi è un piacere sentirla prima mattina. Sempre. Grazie. Appuntamento fisso. Grazie Nicola. Volevo fare la mia domanda. Io sì. Sono destro principalmente, sì. Però mi dicevano, siccome pratico sci alpino, master a livello agonistico, diciamo, per tra virgolette, ma mi dicevano che ho una predominanza ovviamente sul lato destro, mi fanno fare esercizi di prescistica, equilibrio, bilaterali, ma come si fa a prepararsi invece della solita, come si chiama, prescistica, con degli esercizi magari con lo yoga, per fare in modo che questa lateralità sia quasi equivalente da destra e sinistra? Grazie Nicola, Tite. Grazie a voi. Abbiamo proprio invitato gli ascoltatori a dirci, se siete sportivi, segnalateci lo sport che praticate, perché ogni sport apre e chiude alcune parti di noi e noi dobbiamo sapere quali sono per aprire nuovamente o chiuderne alcune. Sì. O per potenziare un lato che è debole e poi anche aprire, cioè creare spazio tra i lati. Questo è in genere per tutti gli sport che usano le gambe. Sì. Quindi anche la corsa. Quindi anche la corsa. La bici. Ci sono il ventaglio enorme di posizioni in piedi nello yoga. Molte si chiamano posizione dell'eroe, 1, 2, 3. Che sono bellissime proprio perché sono sempre bilaterali, si usa sempre prima una gamba e poi l'altra e così si scopre l'importantissimo principio, cioè le relazioni fra le varie parti del corpo. Per esempio, come la colonna vertebrale è stirata o meno a seconda di come lavorano insieme braccia e gambe, come siamo tutt'uno e è proprio un'armonia, la sinfonia, la chiama BKS Iyengar, del corpo nel movimento, per sentire un'azione interna. Quindi, per esempio, per lo sci alpinismo, per la corsa, le posizioni in piedi dell'eroe sono... Le ricordiamo, le potete vedere su Facebook, ma sì. Per chi non ci frequenta su Facebook e fa male, Tite... Oppure ricordiamo. Per esempio il triangolo, mettersi, sono posizioni che ti permettono di stirare una gamba mentre ne pieghi un'altra, di girare un piede di 90 gradi mentre l'altro è diritto e sentire, è come un grande gioco che ti fa disporre nello spazio in maniera inusuale, in modo che tu sei testato e devi essere presente ed essere con il peso al centro delle tue gambe. Sempre stando e respirando. E quindi un esercizio molto semplice che consigliamo alle persone che usano spesso le gambe e che quindi si irrigidiscono nelle anche, è semplicemente, anche dopo la corsa, dopo lo sport, mettersi seduto con la schiena al muro, che sostiene quindi la colonna vertebrale, e semplicemente respirare con le piante dei piedi unite e le ginocchia aperte, senza spingere, senza voler tutto subito. Pazienza è la dote dello yoga. respirando. Massimo, buongiorno, ci chiama da Torino. Buongiorno. Io telefonavo perché nonostante l'età, 50 anni, e praticando... Beh, perché nonostante? Questo non ho capito. No, nonostante l'età, per cui gioco 3 volte a settimana calcio, perché non è troppo normale, ma mi piace, per cui... Bravo, fa bene. E correndo anche, facendo anche un po' di corsa, ho sentito parlare di bacino chiuso. Sì. E quindi volevo sapere. Ha detto: Dio è il mio, il bacino chiuso. Ma sì. E poi parlando per la parte che uso di più alla destra, alla sinistra la uso molto meno, e secondo me anche quando a livello di postura, quando vado al chiropratico a farmi mettere, diciamo, in asse, sforzo molto più una parte che quella che poi serve per sorreggere l'altra. Allora, il bacino chiuso ha colpito Massimo, Tite. È il bacino chiuso e poi la consapevolezza che già una parte è più debole. Anche qui, sempre mantenendo una posizione che apre le anche, che è quella praticamente in cui il ginocchio è piegato e la coscia è rivolta verso dietro, cioè partendo dalla posizione del ciabattino che abbiamo detto prima, invece di tenere le due piante dei piedi unite, si può fare anche con una gamba, sono sempre seduto al muro, una gamba distesa avanti e l'altra invece piegata con la pianta del piede vicino alla coscia, come se io fossi nell'albero ma da seduta. Sì. Quindi facciamo la posizione dell'albero, che l'abbiamo imparata, perché è quella in piedi in cui si porta la pianta del cosa piede da seduto. Sulla coscia interna, stessa cosa da seduto. Anche lì, se prendiamo un asciugamano, una cravatta, per andare a prendere il piede, ci aiutiamo con la cravatta o con l'asciugamano, ma non andiamo in avanti col bacino, non vogliamo tutto subito, allunghiamoci in alto. E respiriamo. Anche la bocca ha un lato debole e un lato forte. Fateci caso, quando masticate privilegiate sicuramente una parte. In alcuni casi è una scelta obbligata, ma spesso a guidarci è l'abitudine. Voi da che parte sgranocchiate, da che parte masticate? In linea con noi abbiamo la dottoressa Veronica Bismaro, odontoiatra, esperta di rieducazione funzionale del cavo orale e di occlusione. Bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottoressa Bismaro, sempre a destra o sempre a sinistra? Meglio un po' di qua e un po' di là. È meglio un po' di qua e un po' di là, perché comunque la masticazione monolaterale, soprattutto se cominciata in età giovane, nella quale ancora le strutture ossee non si sono formate, può addirittura provocare delle alterazioni a livello scheletrico, a livello muscolare, deviazioni mandibolari, quindi è molto importante sviluppare, e mi attacco al discorso della consapevolezza che faceva la sua ospite di prima, sviluppare un'attenzione al lato in cui mastichiamo e cercare di scambiare un po' le parti. Anche perché così mastichiamo più a lungo e sappiamo che la digestione inizia in bocca. Assolutamente. È chiaro che se la scelta è obbligata, come dicevamo, dal fatto che non ci sono denti, piuttosto che i denti da quella parte fanno male, eccetera, bisogna affidarsi a delle cure, ma poi cambiare questa abitudine, scardinare l'abitudine e cercare di portare la consapevolezza proprio lì e quindi alternare i due lati. In questo modo si ottiene uno sviluppo armonioso dello scheletro, della muscolatura, i denti non si usurano e l'articolazione temporomandibolare non soffre e persino la respirazione cranica, tanto cara agli osteopati, ne guadagna. Quindi tutto migliora e di conseguenza tutte le catene muscolari che partono dalla bocca, perché sappiamo che le articolazioni temporomandibolari sono considerate le anche del cranio, quindi sono molto collegate. Le anche del cranio, sì. Vedo Tite che ha subito rizzato le orecchie, perché per lei le anche sono veramente un punto fondamentale. Masticate, gente, masticate e risparmiate la lingua, un muscolo fortissimo di cui, a proposito di consapevolezza, con cui dobbiamo fare i conti. Qua, perché la lingua, a parte che fa molto male masticarsela, quindi è meglio evitare, ma è un insieme di 17 muscoli e anche di lei spesso non siamo consapevoli della sua posizione, della sua postura. Vogliamo dedicare una puntata intera alla lingua, esatto. Ecco, perché anche la posizione della lingua è assolutamente importante per il nostro equilibrio. Prima di salutarci, dottoressa Bismaro, ci indichi la posizione corretta. La posizione corretta della lingua è dove noi diciamo la lettera L. Quindi lì deve stare sia a riposo, sì, sfiorando quel punto che si chiama spot palatino, che è una zona dove c'è un'emersione, un'emergenza di questo ramo del nervo nasopalatino, che ha numerose funzioni anche proprio di reset dell'equilibrio posturale. Deve stare lì a riposo e comprimerlo leggermente tutte le volte che deglutiamo. Pensi che durante la deglutizione, l'atto deglutitorio, noi sviluppiamo fino a 1 chilo di pressione per pollice quadrato, per cui è veramente una forza molto forte, molto importante. Potentissima. E quindi, se messa nel posto giusto, diventa un lato forte, sviluppa il mascellare in senso trasversale. Se lasciata invece più bassa, che magari durante la deglutizione spinge sui denti, ecco che diventa debole, perché l'organismo perde forza, si possono avere alterazioni dell'occlusione, della masticazione e tutto poi di conseguenza. Tra l'altro la sua ospite potrà confermare che in molte pratiche di meditazione la punta della lingua si raccomanda di tenerla proprio in quel punto lì. Nel punto dove ci sono le rughette, dietro i denti. Grazie dottoressa Vismara. Torni presto. Allora, professor Barbanti è tornato? Eccomi qua, salve. Buongiorno, noi abbiamo degli ascoltatori che hanno chiamato il nostro numero verde per misurarsi con le sue domande. Luca dalla provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei. Luca, allora, sì. che mi dice? Secondo me la risposta corretta è che in entrambi i casi il lato preponderante del cervello era il destro. Per le donne e per Einstein la cosa particolare era tutto destro, donne e Einstein il lato forte e il lato destro. Luca, stia lì, andiamo ad Angela da Palermo. Buongiorno Angela. Buongiorno. Destro, sinistro, Einstein, donne, uomini, che mi dice? Allora, per Einstein era il lato destro, per le donne al contrario il lato sinistro. Allora, Angela ci fa questa distinzione, professor Barbanti intanto segni, abbiamo anche... Io segno tutto. Lei... Chissà che cervellone. Silvia, buongiorno da Roma. Buongiorno. Silvia, destro, sinistro, Einstein, donna? Ma dunque, nel primo caso io cambio un po' la risposta, nel senso che credo sia più le relazioni, cioè le connessioni tra i due emisferi. La capacità di avere maggior numero di connessioni. Sì, ma... per le donne? E per le donne direi il destro. E per le donne il destro. Professor Barbanti, 3 dei nostri ascoltatori che si sono misurati hanno... Mi ha fuggito il nome dell'ascoltatrice romana. L'ascoltatrice romana è Silvia. Silvia. Luca dalla provincia di Lucca. Luca e Angelo da Palermo. Va bene, allora vediamo, perché abbiamo una guida al benessere. Allora possiamo svelare il segreto? Sì. Dunque, in realtà il cervello di Einstein era un cervello che aveva un peso normale, anzi lievemente inferiore alla norma, 1 kg 240 g, aveva meno cellule nervose nobili, neuroni, rispetto a quelle meno nobili, gliali, ma, ha ragione Silvia, non prevaleva l'emisfero sinistro o l'emisfero destro, in quanto a specializzazioni, erano sostanzialmente le aree associative, le zone di confine tra le diverse funzioni, quelle che devono tirare le somme, particolarmente sviluppate. Quindi la risposta più vicina, e ovviamente non può che essere così, è quella di Silvia di Roma, relativamente a Einstein. Ne ha una domanda su due. Mentre per le donne, professor Barbanti, per le donne, si avvicina... uno penserebbe alla creatività, all'emisfero destro, ma ha ragione in realtà la signora Angela di Palermo. E l'emisfero sinistro, quello che sorprende è che la donna ha straordinariamente sviluppato, sorprende fino a un certo punto perché abbia moglie o figlie, il centro del linguaggio. Tanto è vero che il coefficiente intellettivo della donna correla con la densità di neuroni del centro del linguaggio che sta a sinistra. Le bambine parlano prima dei maschi, quindi l'emisfero nella donna più brillante, proprio trainato questo dalla straordinaria capacità linguistica, è quello sinistro, quindi ha ragione la signora Angela di Palermo. Grazie al professor Barbanti, insomma con due ne abbiamo fatta una, ma faremo arrivare ad Angela da Palermo e a Silvia da Roma una copia di Guida al Benessere. Professor Barbanti, grazie. Arrivederci a voi e complimenti ai vincitori. Grazie professor Barbanti. Tite, noi ci trasferiamo perché anche per questa puntata metteremo qualche posizione sulla nostra pagina Facebook. Ringrazio quindi Tite Togni che ci ha fatto prendere consapevolezza del nostro lato debole e ci ha aiutato anche a respirare. Grazie alla prossima. Matteo Comes in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Ho ancora 10 secondi, allora io vi ricordo di venirci a trovare su Facebook, di seguirci su Twitter, che la nostra posta è a vostra disposizione, e come sempre vi aspetto domani. Mi raccomando, state bene.